50 ci sono 27 evoluzioni di Satanismo Musical. Infine alle 20:55 il riepilogo della principale notizia. Seguito dalla presentazione del programma dell'indomani. Concluderemo come sempre con una canzone live. Che è positivo, oggi è il programma con Benicio. Sembra che adesso facesse il riferimento di scrivi che si occupavano di potere di ricunibri per venderli a privati che erano attrezzati a collocarli nella propria tomba. Sembra che anche i sacerdoti erudici facessero parte di questi collegi e di comuni iniziali del sapere. Infatti, proprio nelle carte della vita non c'erano conoscenze scientifiche degli egiziani, ma furono approfondite dall'opera di sacerdoti e da tradizioni religiose del paese. Sicuramente furono i professori di queste case di vita che impartirono l'insegnamento letterario e sacerdotale ai fanciulli che frequentavano le scuole dei templi. Ci sono inoltre pervenute notizie di faraoni che si recavano a consultare gli scrivi della casa di vita per questioni di carattere religioso e culturale. Le case di vita furono i centri in cui si praticava la magia ed esistono un termine per curare del centro di vita fino a quelli dei sacerdoti. Thank you. romano dello stampo di tutto, e suona una cara che sta presendo alla sua casina, perché ha pronto un numero per il centinaio. Si caccia un momento di te, in cui il cammino va alla ricerca. Dal 339, che lo prende la sua casa di stampo di tutto, è la cosa che sta andando del 440 dopo Cristo. I reporti sono avvenuti tra le altre comunità e le associazioni disposte in tempo reale a costruire un ingresso. Tra le reporti di particolare interesse, c'è una carta per l'ufficiale per attivare la vicina del capitolo, nel capitolo terzo, che sarebbe giunta dal 246 al 221 a Monte Cristo. Abbiamo aspettato il 1970 a fermato bene, ricordando il particolare legame che non sono evitato. Il socio della stessa lezione, il 1972, è avuto direttore italiano. E per questo non è stato, per esempio, un passo importante diretto sulla realtà socio-economica e locale, in quanto contribuirà a creare 1000 posti di lavoro e si darà come un posto a favore che contribuirà alla crescita economica della comunità. Il ministro ha concluso affermando che la sicurezza è una priorità che sarà scontata nel governo italiano per favorire il ritorno alla sua sicurezza della terra. La firma dell'intesa testimonia una forte e concreta cooperazione tra le istituzioni dei due paesi e il sistema universitario italiano e il riconoscimento del ruolo che l'Italia gioca nella conservazione e nella promozione di beni culturali, che è una rilevanza che va ben al di là dell'Egitto. L'ambasciatore italiano stesso, in particolare, ha ottenuto il gesto di mano per conoscere il progetto presentato. L'opera da guardia dei beni archeologici è il contributo del mondo socio-economico e delle condizioni di vita delle comunità locali. E di fondo per un altro giorno con un aspetto culturale quello della biblioteca turistica e della creazione di posti di lavoro. Non si tratta solo di pensare a noi stessi, ma di contribuire a migliorare la condizione socio-economica e a creare un sistema economico che viene di strada e che crede in Italia. L'autorità portuale di Trieste ha rappresentato le coste europee con invito della Unicos tedesca ad Alessandro De Giusto per la sala dell'Unione di una federazione di portuali alla presenza del Ministero della Sperta e questo è l'anno per l'interesse del Trieste. Per questo è stato un nome greco e il presidente dell'UE, Marino Moratti, si è contrattato con un relatore di direzione e gestione, con un documento che si permette anche di rapporto con gli operatori più estremi, che ha riferito potrebbe concentrarsi con il supporto organizzativo della Camera di Commercio di Trieste il 10 settembre. La portata è la mia. Thank you. Lasciando un appello al dialogo a tutti i responsabili iracheni. proviene più simile a scontro civile e innocenti, compresi alcuni problemi di preghiera, è assolutamente spaventoso. E gli responsabili dovranno rispondere dei loro crimini, ha aggiunto Ashton, ed è caso i dirigenti politici di Rachele ad impegnarsi in un dialogo sincero allo scopo di superare gli spazi a scuola. In Siria non vi è una soluzione che preveda il mantenimento al potere del presidente Bashar al-Assad, lo ha dichiarato il ministro degli esteri britannico William Hague, a margine della riunione dei paesi amici convocata per oggi ad Amman in Giordania. Il Regno Unito ha da tempo dichiarato che Assad deve andarsene, ha aggiunto Hague, scansando tuttavia l'ipotesi di un intervento militare nel paese. La soluzione deve essere politica, ha ribadito, a prescindere dalla situazione sul terreno. L'opposizione siriana ha scritto oggi a tutti i ribelli di unirsi alla battaglia in difesa a Qusair ed ha lasciato un appello per l'apertura di corridoi umanitari in città. Accorrete basta noi dalla rivoluzione dell'esercito siriano libero per salvare Qusair e Homs, ha detto il leader dell'opposizione siriana George Sabra. Quest'ultimo d'altra parte ha chiesto alla comunità internazionale di stabilire corridoi umanitari per fornire un aiuto alla popolazione civile coinvolta nel conflitto, salvare i feriti e effettuare medicine ed assistenza a circa 50.000 abitanti sotto assedio. Sono le 20:20 da Radio Cairo, state ascoltando il notiziario. Il vice ministro degli esteri siriano, Faisal al-Mikdad, è oggi a Mosca per incontrare il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, un colloquio che si inserisce nel quadro dell'intensa attività diplomatica in vista della prossima conferenza internazionale di pace, che dovrebbe svolgersi il prossimo mese di giugno a Ginevra. La preparazione di questa conferenza definita Ginevra 2 sarà al centro del colloquio, ha precisato l'agenzia RIA Novosti. Quattro persone sono morte oggi nel quarto giorno di strage attentato nel nord dell'Iran tra le essere sunniti e sciiti. Secondo alcune fonti locali, almeno altre 75 persone sarebbero morte ferite. Lo scontro di arrivo comunicato solo ormai con lo scontro di maggiore frequenza nello scorso mese di marzo, ma contrariamente alle scorse settimane l'esercito di Banigi ha dispiegato nell'anno e mezzo giorno e non è riuscito a salvare le armi. La comunità araluca è vicina ai fini siriani di Bashar al-Assad, mentre i libanesi sono invece sulla corriere di avendo adesso molto dell'autorità di Damasco. Il ministro dell'interno libico, Ashur Shuur, ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del primo ministro Ali Zeidan, scrive Al-Qaeda al-Arabi, quotidiano online edito a Londra, citando fonti libiche. Le motivazioni della decisione sono ufficialmente personali, ma la base si sarebbe il fallimento dell'azione per neutralizzare le formazioni terroristiche che agiscono in Libia. Il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha annunciato che si adeguerà alla disciplina e economia di intervenire contro l'espulsione del suo bambino ex familiar Rahim Mashal dalla presa alla presidenziale del 14 giugno. Considero Rahim Mashal un buon credente, qualificato e utile committente, che lo ha presentato come candidato per questo. Ma è stato vittima di una giustizia. Per gli assegni ad un tribunale di Istanbul a 13 mesi di prigione, con l'accusa di aver scritto in un suo articolo di pensiero di venuti offensivi nei confronti del processo di Nizza, negando tutto l'agenzia Anatolia. La corte ha ritenuto di rimanere colpevole di insultare pubblicamente i valori religiosi di una parte della popolazione, recita la sentenza, che giunge a poche settimane da una decisione analoga presa dalla magistratura turca contro il pianista di fama mondiale Kadir Sel. Per il personale costituzioso, il cancelliere tedesco Angela Merkel è la donna più potente del mondo. Lo conferma la famosa classifica stilata dalla rivista americana Forbes. Al secondo posto si piazza il presidente brasiliano Dilma Rousseff, davanti all'imprenditrice americana Melinda Gates, Naomi Rabeau e fondatore di Microsoft. Di 28 minatori morti in bilancio definitivo del crollo di una galleria sotterranea nel sito dell'americana Freeport-McMoRan, nella Nuova Guinea indonesiana. Gli ultimi 7 corpi sono stati recuperati stamattina dai detriti dell'incidente del 14 maggio scorso. Solo 10 dei 38 lavoratori coinvolti nel crollo sono sopravvissuti. La Freeport ha dichiarato per oggi un giorno di lutto per le vittime, precisando che le commemorazioni saranno tenute a Giacarta ed in Papua. Per le parti sono usciti vittoriosi dalle ultime elezioni in Islanda, il Partito Progressista e il Partito per l'Indipendenza hanno trovato un accordo di governo che prevede la sospensione dei negoziati di adesione per l'ingresso del paese nell'Unione Europea. Non proseguiremo nei negoziati di adesione fino a che non termini un referendum, si legge in un comunicato convoto dai due partiti. Il premier cinese Li Keqiang è arrivato a Islamabad, dall'India, per la seconda tappa di un viaggio che lo porterà poi in Europa. A Islamabad Li vedrà il presidente Asif Ali Zardari e il premier pakistano Imran Azhar Khan Khan, responsabili di un paese internazionale alleato cinese nella regione. Tra i temi di sfida, molto transport favorevoli alla Cina, la crisi economica pakistana ed in particolare quella energetica che Pechino vuole contribuire a risolvere. Grazie cari ascoltatori, avete appena ascoltato il notiziario. Il 12,6% nella forza lavorativa in netto. i flussi di turistici verso lo Giappone sono cresciuti nel 2012 del 17,4% rispetto all'anno precedente, dichiarato Candido, e sono previste cifre positive entro la fine di quest'anno. Il Presidente del Consiglio ha menzionato inoltre che il governo istituirà un fondo per il supporto del turismo e del capitale di 6 miliardi di dollari da spendere nell'arco di 3 anni a partire da luglio. Riguardo alla riconciliazione con gli investitori, egli ha ribadito che ciò è un orientamento generale che va effettuato equilibratamente perché lo Stato abbia tutti i suoi diritti completamente. Ascoltatori, siamo arrivati così alla conclusione del vostro programma. Vi auguriamo buon proseguimento di serata e alla prossima puntata. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Dossier Economico, cura di Yasser Ahmed, presentato per voi da Antonello Bocchino. Non è importante, ma è importante che la persona sia in grado di fare la sua parte. precisamente nel 1993. Durante questo dibattito hanno accennato grande interesse in gestione delle acque del mare, essendo uno dei pilastri economici importanti. Come tutti i gruppi, lavorano regolarmente nelle acque del mare presso la seconda cataratta, per tutto assicurarsi dello stato della terra, che prende le misure necessarie nella rossa o anche piena. Non tutti i gruppi hanno fatto una nuova arena in forma che le acque del mare svelata al giorno vorrei tutti fare in caso di arrivare. Tutta la provincia di Fellini ha inizio per soltanto dei tempi di schiaccio o questo sabato. Vi è stata verificata una superficie di 27 mm quadrati. Nuove città sono state stabilite in Cabo Verde, oltre a quello di distanza. Il cielo scelto dopo ore dopo mi ha indicato che il nuovo canale è stato scavato da un'altra parte. Uno dei più chiari segnali della dedizione della sua famiglia. E ciò per immagazzinare l'eccesso d'acqua nel periodo della piena. Un fatto che ha sollevato l'ammirazione degli storici, che ha detto, sebbene il cielo del palazzo labirinto costruito da questo re in famiglia sia magnifico, il lago scavato in prossimità del palazzo è molto più stupendo. Si estende da nord a sud. L'acqua presente nel lago non è lì per natura, poiché la provincia è molto secca. Questa proviene dal lago e percorre il canale per un periodo di 6 mesi al fine di raggiungere il lago. Poi ritorna di nuovo al fiume in 6 mesi. Cari ascoltatori, il canale nazionale da Eurodonte è conosciuto in questo giorno con il nome di Mare di Lucas. Spinta da Beirut, e scorre fino all'oasi di Fellini. Il cielo del storico greco Strabone ha citato il lago Mineris o Carino e il canale che lo collega al Nilo nel quadro della sua descrizione di Fellini. Ha detto il paraguardo, si tratta di un lago tanto grande quanto il mare. Il colore della sua acqua è simile a quello dell'acqua del mare. Alle sue coste sembrano quelle del mare. La sua larghezza e la sua profondità sono capaci di contenere l'acqua in eccesso in periodo di piena. Lungo la storia, gli egiziani hanno accordato un grande interesse all'acqua del Nilo e hanno stabilito diversi progetti per trarne il massimo profitto. Avete ascoltato il mio fatto di vita a cura del dottor Macrino in Vertano. vi presenta. Carissimi amici, buonasera. Per la costruzione di una lente di architettura religiosa e funerale, l'architetto estraevano dalle miniere, dalle case, la tradizione come un basalto, un marmo, una scatola, un quartzo o un alabastro. Gli egizi conoscevano anche l'esistenza nel sottosuolo della loro terra di pietre preziose, tanto invece parleremo oggi della miniera e dei minatori nell'antico Egitto. Seguiteci. Nelle epoche più antiche furono organizzate delle vere e proprie esposizioni armate. Soltanto nel nuovo regno, grazie a Sergio I e suo figlio Ramses II, lo sfruttamento iniziò ad essere organizzato. Gli egizi cercavano nel deserto orientale, al confine tra Egitto e Sudan, smeraldi, rame, zaffiri, amatite, lapislazzuli, cocchiere, soprattutto loro. Questo la vegetazione minerale poteva dare solo pochi giorni di vita. Delle condizioni dei minatori abbiamo perso un attacco. Dai suoi ufficiali e ingegneri, la maggior parte del lavoro del giacimento veniva svolto da compagni di guerra o condannati che condividevano per la fatica anche con tutta la famiglia. La terza lavora in cestoia, per mandare avanti una miniera, sembra fosse talmente grande da essere paragonata ad un grosso comune, infatti adesso vanno in ambedi nuovi e parevano scortate dalle onde che partivano dal giacimento e portavano a piedi monti e dalla città egiziana le pietre preziose loro argento e plata. Per poter aumentare il suo potere. Purtroppo con la progressiva decadenza della civiltà egizia, le miniere vennero gradualmente abbandonate e la strada del deserto orientale cancellò le tracce dell'ingresso della miniera dei comuni. Musulmani che comprende i principi della loro dottrina, del loro culto, di tutto ciò che concerne il loro comportamento sociale. Comprende anche differenti aspetti su quali sono passate le loro istituzioni culturali, sociali e politiche. versetto di relazione è un programma che studia i versetti del Corano che sono legati ad una certa situazione o ad un certo evento. Seguiteci. Questa sera ci soffermeremo sul versetto 22 della Sura della Luce, in cui l'Onnipotente dice: non giudino coloro che possiedono mezzi e sostanze di non dare più nulla ai parenti, ai poveri e agli emigranti sulla vita di Dio. Perdonino anzi, e condonino. Non amereste anche voi essere perdonati da Dio? Dio in verità è perdonatore, indulgente. Ma potete affermare che questo versetto fu rivelato per Abulato, il quale aveva giurato offerto del denaro a Nizza Ibn Assassa, a motivo delle chiacchiere infondate che aveva divulgato a scapito di Aisha. Abu Bakr se veniva alle spese di Nizza Ibn Nodo. Quando l'Onnipotente rivelò i versetti che discolpavano Aisha, i cuori pieni furono rasserenati, e coloro che si erano resi colpevoli delle chiacchiere infondate contro i credenti se ne pentirono. Furono legalmente puniti a questi capori. L'Onnipotente volle anche nuovo il cuore di Abu Bakr nei confronti del suo familiare. Rispetto a una stessa, questo poverissimo voleva del denaro che gli offriva suo cuore Abu Bakr. Mi sono era fra coloro che emigrarono per la causa di Allah, che aveva partecipato alla battaglia in Badr. E gli sparse voce diffamante riguardo ad Aisha, ma se n'era pentito ed aveva ricevuto il castigo legalmente stabilito per coloro che commettono questo tipo di colpa. Abu Bakr e il Sedic era noto per la sua carità e la sua generosità nei confronti dei suoi familiari e dei poveri, anche al di fuori della sua famiglia. In questo versetto Allah gli ordina di perdonare Cristo e di versargli quanto era solito fare, per carità e pietà, e al fine di proteggerli da forti come familiari. Quando il profeta recitò questo versetto dinanzi ad Abu Bakr, questo disse: per Dio desideriamo essere sempre perdonati dall'Allah. E prese poi a dare in Israele ciò che era solito dargli, disse: giuro in nome di Dio che probabilmente ne priverò mai. Lo stesso che abbiamo scelto questa sera esorta le persone agiate e ricche a non privare mai del loro aiuto, messi dalla collera per una azione da loro non approvata, coloro familiari e gli estranei che avevano preso sotto la loro protezione. Lo stesso invita a personare quel popolo, ad astenersi dal fare dei poveri e a riprendere e offrire il loro aiuto. Il versetto si rivolge a questi benefattori dicendo: non desiderate che Dio vi perdoni le vostre colpe in cambio della vostra generosità e la capacità vostra di perdonare coloro che vi hanno offeso in qualche modo? Perdonate e l'Onnipotente vi perdonerà. Il profeta messo in caso contorto: fate misericordia agli uomini in questo mondo terreno e l'Onnipotente vi soffrirà della sua clemenza e della sua misericordia. Al-Banat ibn Abbas hanno riferito che alcuni credenti avevano deciso di rompere ogni relazione con coloro che avevano senza motivo sparlato di Aisha e dissero: non aiuteremo più coloro che hanno divulgato false informazioni riguardo ad Aisha. Fu allora che l'Onnipotente fece riprendere il versetto da me citato riguardo a Romano e a Nisso. Segnaleremo che questo versetto si rivolge a tutti i credenti e si conferma con l'argomento che verrà sempre discusso fino al giorno dell'ultimo giudizio. Il volto che voi potranno girare, messi dalla collera, e cesseranno di offrire il loro aiuto bisognoso, quand'anche avessero commesso qualche errore nei loro confronti. Per un errore commesso, viene precisato, non può far dimenticare tutto ciò che di buono sono stati capaci. Infatti l'Onnipotente cita Nistone nel Corano qualificandolo di evitato Dio, e questo venne dopo ciò che ne fu rimproverato in merito alla sua maldicenza nei confronti di Aisha. Solo il politeismo rende vere tutte le buone azioni dell'uomo. L'Onnipotente in un'altra sura dice: se sei politeista, le tue azioni sono vane, tu sarai certamente perdente. Caro, vi abbiamo presentato Versetti di relazione, un programma a cura di Hakim Bassan e Kabir, presentato per voi da Antonello Bocchini. Da Radio Caro, il ritiro delle principali notizie. notizia. Rilasciati 7 militari rapiti nel Sinai. Almeno 12 persone sono rimaste uccise, tra cui 7 donne, in un attacco ad est di Baghdad. Riunione degli amici della Siria ad Amman. Arrivo del premier cinese ad Islamabad. Per ascoltatori, ora prima di lasciarvi all'ascolto della canzone roba conclusiva, vi faccio un breve riassunto dei programmi del Medanel che saranno presentati da me e da Michelle per martedì. Alle 20 ci sarà l'apertura, alle 20.03 dell'Egitto, alle 20.05 la metà della nuova sera, alle 20.15 l'edizione sulla testa class, alle 20.30 conto per il giocare di martedì, alle 20.35 per la mattina. Le 20.40 prima pagina, alle 20.45 ascolterete la radio musica a Martano, alle 20.50 la mappa turistica di Marrakech, infine alle 20.55 la serata della pace con la notizia, che vi chiede anche la questione del problema del Mediterraneo e con il paragono con la canzone. Dallo studio 33 di Radio Cairo speriamo di essere stati piacevolmente in vostra compagnia e vi auguriamo una buona serata. La tecnica Mustafa Fouad, al microfono Antonello Mattino e Amici Vini.